Quest'oggi il test attitudinale raccontava un accadimento buffo accaduto a qualcuno che si è trovato nel camerino dei Generation X di Billy Idol nel 78 e dovendola fare in un modo o nell'altro è andata a finire che l'ha fatta addosso a Billy Idol. Ah, infatti, episodio che testimonia il fatto che anche i rocker abbiano bisogno qualche volta di liberarsi. Chi è stato a raccontarci questo aneddoto proprio al telefono qualche minuto fa? Forse Johnny Rotten dei Sex Pistols? Beh, ci potrebbe anche stare come personaggio, ma no. Aia, era un tranello questo. Infatti, freak. Era lui. E allora forse Peter Hook dei Joy Division? Direi di no. Neppure. E allora, forse il meno probabile ad averla fatta su Billy Idol, perché era proprio Lauren Tolarsh, il batterista dei Cure, membro fondatore e componente del nucleo creativo dal 76 all'89, ad averla fatta su Billy Idol, il batterista dei Cure. Hai capito? Giuro, non lo sapevo neanch'io. Adesso lo ammettere. Adesso lo so. Mi tolgo da solo due punti per la patente di vero rocker, laddove testimoniamo che anche noi spesso non sappiamo le cose. A maggior ragione, voi ascoltateci. E se non le sai? Salle. Bravo. Grazie. travolgente giro di basso di Fascination Street, targato Cure. Benvenuti nell'ultimo quarto di Pane, Burro e Rock and Roll. Arrivo alle 9, lì si ferma il treno del rock and roll. Un Ariele messo male quest'oggi, di nuovo l'augurio di una buona giornata a tutti voi là fuori. Messo male semplicemente per pochissime ore di sonno, forse qualche quarto d'ora di sonno, reduce però da un lungo weekend lavorativo vestito da zombie, per farvi sapere quanto siamo rock qui. Ho ancora pezzi d'argilla un po' dappertutto e sangue finto sparso nei vestiti. È appiccicoso il succo di lampone, sì, è parecchio appiccicoso. Va bene, tra l'altro si sta avvicinando Halloween, vi avviso, no? Cioè, succo di lampone va benissimo per sputare sangue finto ma appiccica. Ciao Davide 71, ciao Lucia, patente 552, ciao gruppo d'ascolto Mamme Poliziotte, ciao Roberto da Lucca che se ne va ad Amsterdam, però ci promette una bella cartolina, grazie Roberto. Ciao Andrea, ciao anche a Franz, è davvero rocker andare un po' brillo alla festa di uno dei miei migliori amici che diventa parroco, vedere uscire 30 preti dalla chiesa e gridare distinto un'autobomba! E venire guardato male da tutti. Vedi tu. Vivo a Genova e la donna che adoro è a Milano. Non so se è rock, ma di sicuro è meraviglioso. Silvio Romanticone, capito? Saluto anche a Gianfra. Qui il delirio. Frick, sei bellissimo, mitico, un vero schianto. Voterò sempre ad ogni referendum Frick Antoni, premio Nobel. Un applauso anche al Ciuffo e al Brucia, ultimamente presenti nel nostro 3351007777. Si prosegue al ritmo degli Animals la nostra mattinata con It's My Life. una delle premiate rubriche di Pane, Burro e Rock and Roll è questo corso che abbiamo scoperto. Il maestro Fricantoni tiene a chiunque voglia ambire a diventare come lui. Sì. Il corso pubblicizzato è Diventa come Roberto Fricantoni via posta, basta iscriversi e prima o poi si diventa come lei. Sì, io a dir la verità, per modestia, non volevo dirlo né fare, tanto più né fare pubblicità, insomma. Mi hanno detto, però, la redazione mi dice che ci sono talmente tanti iscritti che volevamo dare, amplificare questo corso. Grazie, lei sa che il mio naturale senso di modestia mi impedisce di dare queste notizie, ma se lo farei volentieri. Potremmo, mi dice la regia, esageri pure, avere in linea un altro degli iscritti di questo corso. Voglio diventare come Roberto Fricantoni. Pronto, chi parla? Pronto? Sì? Sì, pronto, buongiorno. Ariele? Sì, esatto. Sono Gian. Gian, ma Gian da Genova, il gelataio? Sì. Ma sei lo stesso dell'altra volta? Ragazzi, finalmente sono riuscito a prendere anche la linea. Sì, sì, perché le linee effettivamente, no? Sì. Buongiorno Gian, saluto, ciao, ciao, come va? Come va? Come va? Perché le linee sono talmente intasate che in effetti prendi la linea. Volevo cogliere l'occasione anche per farti una domandina veloce, si tratta di un'inezia, così. Hai spedito Gian la seconda rata del corso? Mai. Maestro, senta, io volevo prendere proprio la linea per dire che io ho fatto tutto, sì. Però non mi è ancora arrivato niente. No, però allora ragazzi, di questo magari poi ne parlate, sì, in fuori, certo, onda, che non ci interessa. Gian, certo, siamo su Rock FM, promuoviamo ancora, non mi faccia fare queste figure, il corso per diventare come Roberto Fricantoni. Ti diamo la possibilità gratis di avere un regalo via etere dal maestro Roberto Fricantoni. Gliene racconti una delle sue, la prego. Sì. Un aforisma, un aforisma, perfetto. Sì. Parlando, sì, di tragedie dove c'è il doppio messaggio, perfetto, l'ilarità ma anche i contenuti, ecco, sì, io vorrei dire che una volta toccato il fondo, sì, puoi sempre scavare, risalire. Mentre a me capita di scavare, cominciare, sì, a, sì, scavare. L'avevamo già sentita Gian, l'ho già detta, sì, in realtà l'aveva già detta Gian. Sembra un déjà vu. No, Gian, allora vediamo di non polemizzare. Ricordati che l'importanza del corso è allenarsi, allenarsi. Sì, certo, anche perché le frasi classiche sono sempre le più valide. Gian, ti stai allenando? Sempre, forever. Vuoi darci una prova che questo corso funziona? Vuoi tentare una frase anche tu? Un aforisma? Possiamo provare. Dai, vai Gian, vai. Beh, io intanto posso dire che un gatto di sesso femminile che se ne sta sul davanzale di una finestra non può essere altro che una gatta persiana. Questa è buona, questa è notevole, notevole. Grande Gian, notevole. Stai facendo passi da gigante. Scusa, aggiungo una piccola intuizione se posso, sì? E se fosse una gattina sarebbe accostata ad una tapparella. Gian, grazie mille, buon proseguimento del corso. E noi proseguiamo con la nostra trasmissione. Usciamo da questi impacci, freak. Usciamo da questo cul-de-sac. E beh, che c'è? innanzitutto riciclarsi. Cosa dici, Frigo? Io dico innanzitutto voglio riciclarsi. Oh, Frigo, come sei messo? Guarda che non si capisce niente di quello che dice, sbiascichi tutto. Deve essere quel nuovo whisky irlandese del dottore. Maledetti umani, ci costringono a scolarci dell'alcol contro il nostro volere. Ma ce la pagheranno, Frigo, fidati, ci pagheranno tutto, fino in fondo, quei maledetti. No, Rogno, guarda che l'ho rubata io di nascosto la bottiglia. Roba buona, la vuoi? Ma dai, ma sì, dai, fammi assaggiare. What these images mean, locked inside me, can't set the windows free, like perishing flowers, they sag and twist and die. Sarà una rivoluzione, come cantano i Cult, se continuerete a rispondere all'appello di pane, burro e rock and roll. Non chiedetevi cosa pane, burro e rock and roll può fare per voi, ma cosa voi potete fare per pane, burro e rock and roll. E allora sì, che finalmente la nicchia vincerà, e allora sì, che Davide sconfiggerà Golia. Tutta questa tiritera per salutare il, direi, il primo gruppo d'ascolto ultra. Non avevamo avuto altre segnalazioni fino a oggi. Dario dal Lido di Camaiore, che ci segnala che ieri dallo stadio Franchi di Firenze, in curva Ferrovia, svettava il suo striscione: sono cresciuto a pane, burro, rock and roll e Fiorentina. Tutto di colazione, tra l'altro, eh? Grazie Dario, è un piacere sapere che combinate queste cose. La redazione mi segnala una news fresca fresca che non potevamo far passare inosservata. La rubiamo al Daily Express, perché il buon Julian Lennon, figlio di John Lennon, dice di aver visto suo padre. Tra l'altro è una cosa che sta andando parecchio di moda ad Hollywood in questo periodo, vedere i fantasmi. Succede appunto a Julian in Australia, con lui dice c'era mio papà John, morto 25 anni prima. L'apparizione ha avuto luogo mentre Julian Lennon partecipava a un'antica cerimonia di una tribù aborigena. Sti figli di rockstar, hai capito? Vanno in giro a partecipare a cerimonie di tribù aborigene, così, tanto per riempire il tempo. Una fonte ha raccontato al Daily Express che quando uno degli anziani gli ha dato una piuma bianca, il figlio, ormai 44enne del cantante, si è emozionato profondamente, ricordandosi che suo padre, prima di morire, gli aveva promesso di ritornare proprio sotto forma di piuma bianca. Alla notizia è legata anche quest'altra, ovvero per Lennon non si tratterebbe della prima volta. Nel 95 si sarebbe manifestato, come rivelò Paul McCartney, anche ai suoi ex compagni di band, con le sembianze di un pavone bianco mentre erano in studio per completare le registrazioni del singolo Free as a Bird, originariamente inciso appunto dallo stesso Lennon nel 77. Questa non la sapevo, ma è brutta forte. A Paul McCartney. Mi puzza parecchio di cosa promozionale. Questa era meglio se non la dicevi, eh? Però noi qui ne approfittiamo per gustarci Free as a Bird. Nel caso doveste intravedere un pavone bianco attraversarvi la strada, non tiratelo sotto, ragazzi. È John Lennon. Fategli il segno della pace, no? Peace, love and music from Rock FM. Liberi come gli uccelli, i Beatles. Pochettino ci ho sperato, adesso magari non in un pavone bianco che qui in Vittor Pisani sarebbe veramente un filo troppo, mi sarei accontentato, caro John, anche di un piccione albino, un segnetto, un qualcosa. Noi insomma sponsorizziamo sempre John Lennon, vabbè, niente piccione albino per noi. Spero che voi invece abbiate visto qualcosa. Mi piacerebbe incontrare John Lennon, anche sotto forma di fantasma, sì. Poi tanto dopo un weekend vestito da zombie non mi fa paura, direi più nulla. Sono le 8 e 57 minuti primi e secondo me c'è una coda. Eccola qui. Non conoscessi Free as a Bird. C'è il finale un po' psichedelico. il primo commento che arriva alla notizia appena letta è: ma Julian Lennon cosa ha fumato con gli aborigeni? Ragazzi, alla fine di Pane, Burro e Rock and Roll. Stiamo in squadra con chiunque abbia scritto beati voi che alle 9 avete finito. Io devo tirare fino alle 2. Nicchia o non nicchia, io non ci arrivo. Siamo in squadra con te, dai. Poi stai tranquillo che anche noi ne abbiamo ancora per un bel po'. Costruiremo insieme qui nella redazione di Pane, Burro e Rock and Roll la puntata di domani che andrà in onda precisa come un orologio svizzero alle 7 del mattino. Chiudiamo la 114. Sigla! Ciao Mister Trombetta, domani. Ciao a tutti voi, vi lascio con Garavelli. Pane, burro e rock and roll. La tua colazione rock. La tua colazione rock. La colazione che dà assuefazione. Pane, burro e rock and roll. Ne abbiamo in serbo un sacco di sorprese. Boh, così. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Perché conviene e perché fa bene. Buongiorno Garavelli. Prova, sì, quello giusto? Prova. Esatto, era il 2, non era il 3. 1-2. Allora tu cerchi di tirare il pacco a spadino, Garavelli, no. Ti ho capito. Senti, per Halloween stiamo in una botte di ferro, eh? Mi sono portato dietro un paio di chili d'argilla. Ah, è vero, è vero. Se vuoi ti faccio diventare uno zombie, ma in 5 minuti ci impieghi. Ormai hai capito come si fa, il trucco, hai visto, eccetera. Sono pronto alla trasformazione da zombie, mi lasci 5 minuti, torno zombie, torno normale. Va, bene, bene. Comunque il trucco è il succo di lampone. Buono, per ma te lo sei bevuto tutto? Ah, per il sangue. Sì. Anzi, secondo me noi di Rock FM dovremmo organizzare la prossima festa una bella sputacchiata di sangue in faccia. Fa molto rock, eh? Ma per noi o verso il pubblico? Secondo me è meglio, se non vogliamo far scattare la rissa, è tra meglio di tra di noi. Okay. Poi se ci tieni invece anche la rissa col pubblico. No, assolutamente, lo sai che io sono pacifico. Eh no, anch'io, però una bella scazzottata fa molto rock anche quello. O se no, alla Alice Cooper, che terminava i suoi concerti con i palloncini, li lanciava sulla gente enormi, la gente se li passava finché c'era il solito frescone che lo rompeva e dentro succo di lampone. Aia! Hai capito? Perché anche noi lanciamo i palloncini, però non ci ho mai messo il succo di lampone. È la prossima. Sì, ma poi gli Scooper mica lo picchiavano, a me mi picchiano. Anche perché l'ha finito il concerto, se n'era già andato. Ciao Garavelli, ciao, buona giornata. Ciao.